Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'inizio del pasto fu, come sempre avviene in provincia, raccolto. L'arciprete si fece il segno della croce e si lanciò a capofitto senza dir parola. L'organista assorbiva la succolenza del cibo ad occhi chiusi. Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani e parte delle proprie buone maniere e divorava con l'appetito dei suoi 17 anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell'impugnatura le conferiva. Tancredi, tentando di unire la galanteria alla gola, si provava a vagheggiare il sapore dei baci di Angelica, sua vicina, nel gusto delle forchettate aromatiche, ma si accorse che l'esperimento era disgustoso e lo sospese, riservandosi di risuscitare queste fantasie al momento del dolce. Don Fabrizio, benché rapito nella contemplazione di Angelica che gli stava di fronte, ebbe modo di notare, unico a tavola, che la demi-glace era troppo carica e si ripromise di dirlo al cuoco l'indomani. Gli altri mangiavano senza pensare a nulla e non sapevano che il cibo sembrava loro tanto squisito anche perché un'aura sensuale era penetrata nella casa. Tutti erano tranquilli e contenti, tutti tranne Concetta. Essa aveva sì abbracciato e baciato Angelica, aveva anche respinto il lei che quella le dava e preteso il tu della loro infanzia, ma lì, sotto il corpetto azzurro pallido, il cuore le veniva attanagliato. Il lei si ridestava il violento sangue salina e sotto la fronte liscia si ordivano fantasie di benefici. Tancredi sedeva fra lei ed Angelica e con la compitezza puntigliosa di chi si sente in colpa divideva equamente sguardi, complimenti e facezie fra le sue due vicine, ma Concetta sentiva, animalescamente sentiva, la corrente di desiderio che scorreva dal cugino verso l'intrusa e il cipiglietto di lei fra la fronte e il naso si inaspriva. Desiderava uccidere quanto desiderava morire. Poiché era donna, si aggrappava ai particolari, notava la grazia volgare del mignolo destro di Angelica levato in alto mentre la mano teneva il bicchiere, notava un neo rossastro sulla pelle del collo, notava il tentativo represso a metà di togliere con la mano un pezzetto di cibo rimasto fra i denti bianchissimi, notava ancor più vivacemente una certa durezza di spirito. E da questi particolari, che in realtà erano insignificanti perché bruciati dal fascino sensuale, si aggrappava fiduciosa e disperata, come un muratore precipitato si aggrappa a una grondaia di piombo. Sperava che Tancredi li notasse anch'egli e si disgustasse dinanzi a queste tracce palesi della differenza di educazione. Ma Tancredi li aveva già notati e, ahimè, senza alcun risultato. Si lasciava trascinare dallo stimolo fisico che la femmina bellissima procurava alla sua gioventù focosa ed anche dalla eccitazione, diciamo così contabile, che la ragazza ricca suscitava nel suo cervello di uomo ambizioso e povero. Alla fine del pranzo la conversazione era generale. Don Calogero raccontava in pessima lingua ma con un intuito sagace alcuni retroscena della conquista garibaldina della provincia. Il notaio parlava alla principessa del villino fuori città, cioè a 100 metri da Donna Fugata che si faceva costruire. Angelica, eccitata dalle luci, dal cibo, dallo chablis, dall'evidente consenso che essa trovava in tutti i maschi attorno alla tavola, aveva chiesto a Tancredi di narrarle alcuni episodi dei gloriosi fatti d'arme di Palermo. Aveva posato un gomito sulla tovaglia e poggiato la guancia sulla mano. Il sangue le affluiva alle gote ed essa era pericolosamente gradevole da guardare. L'arabesco disegnato dall'avambraccio, dal gomito, dalle dita, dal guanto bianco pendente venne trovato squisito da Tancredi e disgustoso da Concetta. Thank you. Tancredi, pur continuando ad ammirare Angelica, narrava la guerra facendo apparire tutto lieve e senza importanza: la marcia notturna su Gibilrossa, la scenata fra Bixio e la Masa, l'assalto a Porta di Termini. Io non avevo ancora questo impiastro sull'occhio e mi sono divertito un mondo, signorina, mi creda. Le più grandi risate le abbiamo fatte la sera del 28 maggio, pochi minuti prima che io fossi ferito. Il generale aveva bisogno di avere un posto di vedetta in cima al monastero dell'Origlione. Picchia, picchia, impreca, nessuno apre. Era un convento di clausura. Tassoni, Aldrighetti, io e qualche altro tentiamo di sfondare la porta con il calcio dei nostri moschetti. Niente. Allora corriamo a prendere una trave di una casa bombardata vicina e finalmente, con un baccano d'inferno, la porta viene giù. Entriamo. Tutto deserto. Ma da un angolo del corridoio si odono strilli disperati. Un gruppo di suore si era rifugiato nella cappella ed esse stavano lì ammucchiate vicino all'altare. Chissà cosa temessero da quella diecina di giovani esasperati. Era buffo vederle, brutte e vecchie com'erano, nelle loro tonache nere, con gli occhi sbarrati, pronte e disposte al martirio. Guaivano come cagne. Tassoni, quel bel tipo, gridò: «Niente da fare, sorelle, abbiamo da badare ad altro. Ritorneremo quando ci farete trovare le novizie». E noi tutti a ridere che si voleva mettere la pancia in terra. E le lasciamo lì, con la bocca asciutta, per andare a far fuoco contro i regi dai terrazzini di sopra. Angelica, ancora appoggiata, rideva, mostrando tutti i suoi denti di lupatta. Lo scherzo le sembrava delizioso. Quella possibilità di stupro la turbava, la bella gola palpitava. Che bei tipi dovevate essere, come avrei voluto trovarmi con voi. Tancredi sembrava trasformato. La foga del racconto, la forza del ricordo, entrambe innestate sulla eccitazione che produceva in lui l'aura sensuale della ragazza, lo mutarono un istante da quel giovanotto a modo che in realtà era in un soldataccio brutale. «Se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie». A casa sua, Angelica aveva udito molte parole grosse. Questa era però la prima volta, e non l'ultima, che si trovava ad essere l'oggetto di un doppio senso lascivo. La novità le piacque, la sua risata salì di tono, si fece stridula. In quel momento tutti si alzavano da tavola. Tancredi si chinò per raccattare il ventaglio di piume che Angelica aveva lasciato cadere. Rialzandosi vide Concetta col volto di brace, con due piccole lacrime sull'orlo delle ciglia. «Tancredi, queste brutte cose si dicono al confessore. Non si raccontano alle signorine, a tavola, perlomeno quando ci sono anch'io». Egli volse le spalle. Prima di andare a letto, don Fabrizio si fermò un momento sul balconcino dello spogliatoio. Il cielo era sgombro di nuvole. Le stelle apparivano torbide e i loro raggi faticavano a penetrare la coltre di afa. L'anima di don Fabrizio si slanciò verso di loro, verso le intangibili, le irraggiungibili, quelle che donano gioia senza poter nulla pretendere in cambio, quelle che non barattano. Come tante altre volte fantasticò di poter presto trovarsi in quelle gelide distese, puro intelletto armato di un taccuino per calcoli difficilissimi, ma che sarebbero tornati sempre. Esse sono le sole pure, le sole persone per bene, pensò con le sue formule mondane. Chi pensa a preoccuparsi della dote delle Pleiadi, della carriera politica di Sirio, delle attitudini all'alcova di Vega? Thank you. abitudini secolari esigevano che il giorno seguente all'arrivo la famiglia Salina andasse al monastero di Santo Spirito a pregare sulla tomba della beata Corbera, antenata del principe, che aveva fondato il convento, lo aveva dotato, santamente vi era vissuta e santamente vi era morta. Il monastero era soggetto ad una rigida regola di clausura e l'ingresso ne era sbarrato agli uomini. Appunto per questo don Fabrizio era particolarmente lieto di visitarlo, perché per lui, discendente diretto della fondatrice, la esclusione non vigeva. E di questo suo privilegio, che divideva soltanto col re di Napoli, era geloso e infantilmente fiero. Questa facoltà di canonica prepotenza era la causa principale, ma non l'unica, della sua predilezione per Santo Spirito. In quel luogo tutto gli piaceva, cominciando dall'umiltà del parlatorio rozzo con la sua volta a botte centrata dal gatto pardo, con le duplici grate per le conversazioni, con la piccola ruota di legno per far entrare e uscire i messaggi, con la porta ben squadrata che il re e lui, soli maschi nel mondo, potevano lecitamente varcare. Gli piaceva l'aspetto delle suore, con la loro larga bavetta di candidissimo lino a piegoline minute spiccante sulla rude tonaca nera. Si edificava nel sentir raccontare per la ventesima volta dalla badessa gli ingenui miracoli della beata, nel vedere come essa gli additasse l'angolo del giardino malinconico dove la santa monaca aveva sospeso nell'aria un grosso sasso che il demonio, innervosito dalla di lei austerità, le aveva scagliato addosso. Si stupiva sempre vedendo incorniciate sulla parete di una cella le due lettere famose e indecifrabili, quella che la beata Corbera aveva scritto al diavolo per esortarlo al bene e la risposta di lui che esprimeva, pare, il rammarico di non poter obbedirle. Gli piacevano i mandorlati che le monache confezionavano su ricette centenarie, gli piaceva ascoltare l'uffizio nel coro ed era financo contento di versare a quella comunità una parte non trascurabile del proprio reddito, così come voleva l'atto di fondazione. Quella mattina quindi non vi era che gente contenta nelle due vetture che si dirigevano verso il monastero appena fuori del paese. Nella prima stavano il principe con la principessa e le figlie Carolina e Concetta, nella seconda Tancredi, la figlia Caterina e padre Pirrone, i quali, ben inteso, si sarebbero fermati extramuros ed avrebbero atteso nel parlatorio durante la visita, confortati dai mandorlati che sarebbero apparsi attraverso la ruota. Concetta appariva un po' distratta, ma serena, e il principe volle sperare che le fanfaluche di ieri fossero passate. L'ingresso in un convento di clausura non è cosa breve, anche per chi possegga il più sacro dei diritti. Le religiose tengono a far mostra di una certa riluttanza, formale sì ma prolungata, che del resto conferisce maggiore sapore alla già scontata ammissione. Benché la visita fosse attesa, si dovette quindi aspettare un bel po' nel parlatorio. Fu verso la fine di questa attesa che Tancredi improvvisamente disse al principe: «Zio, non potresti far entrare anche me? Dopotutto sono per metà Salina e qui non ci sono stato mai». Il principe fu in fondo lieto della richiesta, ma scosse risolutamente il capo. «Ma figlio mio, lo sai, io solo posso entrare qui, per gli altri è impossibile». Non era però facile smontare Tancredi. «Scusa, zione, ho riletto stamane l'atto di fondazione in biblioteca. Potrà entrare il principe di Salina e insieme a lui due gentiluomini del suo seguito, se la badessa lo permetterà. Farò il gentiluomo al tuo seguito, farò il tuo scudiere, farò quel che vorrai. Chiedilo alla badessa, te ne prego». Parlava con il consueto calore. Voleva forse far dimenticare a qualcuno gli inconsiderati discorsi della sera prima. Don Fabrizio era lusingato. «Se ci tiene tanto, caro, vedrò». Ma Concetta, col suo sorriso più dolce, si rivolse al cugino. «Tancredi, passando abbiamo visto una trave per terra davanti la casa di Ginestra. Vai a prenderla, farai più presto a entrare». L'occhio azzurro di Tancredi si incupì ed il volto gli divenne rosso come un papavero. Non si sa se per vergogna o ira. Voleva dire qualcosa a don Fabrizio, sorpreso, ma Concetta intervenne di nuovo, con voce cattiva adesso e senza sorriso. «Lascia stare, papà, lui scherza. In un convento almeno c'è stato e gli deve bastare. In questo nostro non è giusto che entri». Con fragore di chiavistelli tirati, la porta del convento si apriva. Entrò nel parlatorio afoso la frescura del chiostro insieme al parlottare delle monache schierate. Era troppo tardi per trattare e Tancredi rimase a passeggiare davanti al convento sotto il cielo infuocato. La visita riuscì a perfezione. Don Fabrizio, per amor di quiete, aveva fatto a meno di chiedere a Concetta il significato delle sue parole. Doveva trattarsi senza dubbio di una delle solite ragazzate fra cugini. Ad ogni modo, il bisticcio fra i due giovani allontanava seccature, conversazioni, decisioni da prendere, quindi era stato il benvenuto. Su queste premesse la tomba della Beata Corbera fu da tutti venerata con compunzione, il caffè leggero delle monache bevuto con tolleranza e mandorlati rosa e verdognoli sgranocchiati con soddisfazione. La principessa ispezionò il guardaroba, Concetta parlò alle monache con la consueta ritegnosa bontà, lui, il principe, lasciò sul tavolo del refettorio le 20 onze che offriva ogni volta. È vero che all'uscita padre Pirrone venne trovato solo, ma poiché disse che Tancredi era andato via a piedi, essendosi ricordato di una lettera urgente da scrivere, nessuno vi fece caso. Ritornato a palazzo, il principe salì nella libreria che era proprio al centro della facciata sotto all'orologio e al parafulmine. Dal grande balcone chiuso contro l'afa si vedeva la piazza di Donna Fugata, vasta, ombreggiata dai platani polverosi. Le case di fronte ostentavano alcune facciate disegnate con brio da un architetto paesano, altre case, fra cui quella di Don Calogero, si ammantavano dietro pudiche facciatine impero. Don Fabrizio passeggiava su e giù per l'immensa stanza. Ogni tanto al passaggio gettava un'occhiata sulla piazza. Su una delle panchine da lui stesso donate al comune, tre vecchietti si arrostivano al sole. Una decina di monelli si inseguivano brandendo spadoni di legno. Quattro muli erano attaccati a un albero. Sotto l'infuriare del soleone lo spettacolo non poteva essere più paesano. A uno dei suoi passaggi davanti alla finestra, però, il suo sguardo fu attratto da una figura nettamente cittadina, eretta, smilza, ben vestita. Aguzzò gli occhi. Era Tancredi. Lo riconobbe, benché fosse un po' lontano, dalle spalle cascanti, dal vitino ben racchiuso nella redingote. Aveva cambiato abito. Non era più in marrone come a Santo Spirito, ma in blu di Prussia. Il colore della mia seduzione, come diceva lui stesso. Teneva in mano una canna dal pomo smaltato, doveva essere quella con il leocorno dei falconeri ed il motto Semper Purus, e camminava leggero come un gatto, come qualcuno che tema di impolverarsi le scarpe. A 10 passi indietro lo seguiva un domestico che reggeva una cesta infiocchettata contenente una diecina di pesche gialline con le guancette rosse. Scansò un monello, evitò con cura una pisciata di mulo. Raggiunse la porta di casa Sedara. Thank you.